Capitolo 26. Owen Ford si confessa. Mi dispiace molto che Gilbert non sia in casa, disse Anna. È dovuto andare perché a Glen Alan Lyons ha avuto un incidente grave, probabilmente tornerà molto tardi, ma mi ha detto di dirle che domattina presto verrà a salutarla prima della partenza. È seccante, però. Io e Susan avevamo preparato una festicciola di addio. Era in giardino, vicino al ruscello, sulla panchina costruita da Gilbert. Owen Ford era davanti a lei, appoggiato al tronco bronzeo di una betulla gialla. Era molto pallido e sul suo volto si scorgevano i segni di una notte insonne. Anna, sollevando lo sguardo su di lui, si chiese se, dopo tutto, l'estate l'avesse rimesso in forze secondo le aspettative. Aveva lavorato troppo al libro? Ricordò che da una settimana non era nella forma migliore. Preferisco che il dottore non ci sia, disse Owen lentamente. Volevo parlarle da solo a sola, signora Blythe. C'è una cosa che devo confidare a qualcuno, altrimenti rischio di impazzire. È una settimana che cerco di affrontare il problema, ma non ci riesco. So che posso fidarmi di lei e che lei capirà. Una donna con occhi come i suoi capisce sempre. Lei è una di quelle persone con cui ci si confida istintivamente. Signora Blythe, amo Leslie. La amo. Ma amore è una parola troppo debole. La voce gli si spezzò, vinta dall'intensità del sentimento che cercava di dominare. Voltò la testa e nascose il volto sul braccio. Tremava in tutto il corpo. Anna lo fissò, pallida e sbigottita. Non ci aveva mai pensato. Eppure ora le sembrava naturale e inevitabile. Si meravigliò della propria cecità, ma cose del genere non accadevano a Four Winds. Altrove era possibile che le passioni umane sfidassero le convenzioni e le leggi, ma non qui. Leslie aveva saltuariamente avuto dei pensionanti negli ultimi 10 anni e non era mai accaduto niente del genere. Ma forse quei pensionanti non erano come Owen Ford e la Leslie vivace e brillante di quest'estate. Non era la ragazza fredda e immusonita degli altri anni. Oh, perché nessuno ci aveva pensato? Almeno la signorina Cornelia avrebbe dovuto pensarci. La signorina Cornelia era sempre pronta a dare l'allarme quando si trattava di uomini. Anna sentì un irragionevole risentimento nei confronti della signorina Cornelia. Poi sospirò. Non importa di chi era la colpa, ormai il danno era fatto. E Leslie? Era per Leslie che Anna nutriva la profonda, maggiore preoccupazione. Leslie lo sa, signor Ford? Chiese con calma. No, no, a meno che non l'abbia intuito. Non crederà, signora Blythe, che sarei tanto insensibile da dirglielo. Non ho potuto fare a meno di amarla, ecco tutto. E soffro orribilmente. Ma Leslie prova qualcosa per lei? Chiese Anna, non appena ebbe posto la domanda, capì che era indelicata. Owen si affrettò a negare con decisione. No, no, certo che no. Ma potrei riuscire a farle provare qualcosa se fosse libera. So che potrei. Leslie qualcosa lo prova e lo sa anche, pensò Anna. Poi disse in un tono deciso, seppur venato di comprensione. Ma non è libera, signor Ford. A lei non resta che andar via in silenzio e lasciarle vivere la sua vita. Oh, lo so, disse Owen con un gemito e si sedette sulla sponda erbosa e fissò tristemente l'acqua limpida che scorreva in basso. So che non c'è niente da fare se non pronunciare il convenzionale arrivederci, signora Moore. Grazie per la sua cortese ospitalità estiva. Che avrei rivolto alla massaia fiorente, sgobbone e occhiuta che mi aspettavo di trovare venendo qui. Poi pagherò quel che devo, da bravo pensionante andrò via. Oh, è semplicissimo, nessun dubbio, nessuna perplessità. Un cammino diritto verso la fine di tutto. E lo percorrerò, non tema, signora Blythe. Ma sarebbe più facile camminare sui carboni ardenti. Anna fu scossa dal dolore che traspariva dalla sua voce. Non c'era molto da dire in una situazione del genere. Il biasimo era fuori questione, ogni consiglio era inutile e la solidarietà era inadeguata all'angoscia dell'uomo. Provava per lui un ambivalente sentimento di compassione e di rammarico. Ma era in pena per Leslie, la poveretta aveva già sofferto tanto. Sarebbe meno difficile lasciarla se fosse felice, riprese Owen. Ma se penso alla vita che fa, tanto simile alla morte, se mi rendo conto che la lascio in sua balia, è questa la cosa più dura da sopportare. Darei la vita per renderla felice e non posso fare niente di niente, nemmeno per aiutarla. È legata per sempre a quel suo povero disgraziato e ha davanti a sé la prospettiva di una lunga serie di anni inutili, vuoti, senza senso. Ah, se ci penso, impazzisco e io dovrò continuare a vivere senza vederla mai più, sapendo quanto soffre. È terribile, terribile. È doloroso, disse Anna con tristezza. Noi, i suoi amici, tutti sanno quanto è doloroso per lei. E ha tante qualità per poter riuscire nella vita, disse Owen in tono di ribellione. La bellezza è la minore delle sue doti, eppure è la donna più bella che abbia mai visto, col suo riso. È tutta l'estate che cerco di provocare quel riso solo per il piacere di sentirlo. E gli occhi, oh, sono profondi e azzurri come il golfo laggiù. Non ho mai visto un azzurro così. E l'oro dei suoi capelli, li ha mai visti sciolti, signora Blythe? No, io sì. Una volta ero andato al promontorio con l'idea di uscire a pescare con il capitano Jim, ma il mare era mosso, così tornai a casa. Credendo di avere il pomeriggio libero, Leslie aveva colto l'occasione per lavarsi i capelli e stava asciugandoli al sole sulla veranda. Le ricadevano fino ai piedi, come una fontana d'oro puro. Quando mi vide, si affrettò a rientrare e il vento, scompigliandole i capelli, sembrò avvolgerla in una nube dorata. Come Danae. In quel momento fui cosciente di amarla e mi resi conto di averla amata fin dal primo momento quando l'avevo vista stagliarsi nell'oscurità contro il chiarore della casa. E dovrà continuare a vivere qui, assecondando gli umori di Dick, risparmiando su tutto per poter tirare avanti, mentre io trascorrerò la vita sospirando invano per lei, senza che mi sia consentito proprio per questo darle quel piccolo aiuto che un amico potrebbe darle. Camminato lungo la costa tutta la notte, quasi fino all'alba, e ho ripercorso con la mente quest'ultimo periodo. Eppure, nonostante tutto, non mi sento di rimpiangere di essere venuto a Four Winds. Mi sembra che, a dispetto di tutto, sarebbe ancora peggio di non aver conosciuto Leslie. È atroce e lancinante amarla e doverla lasciare, ma sarebbe impensabile non averla amata. Lei mi crederà pazzo, signora Blythe. Sentimenti tanto intensi sembrano sciocchi, se espressi con le nostre povere parole, non vanno detti, solo sentiti e sofferti. Non avrei dovuto parlare, ma mi ha aiutato un po'. Perlomeno mi ha dato la forza di congedarmi decentemente domani mattina, senza fare scene. Mi scriverà di quando in quando, signora Blythe, per darmi notizie di Leslie. Sì, disse Anna. Oh, mi dispiace che lei vada via. Sentiremo la sua mancanza. Siamo stati bene insieme tutti noi. Se non fosse per quello che mi ha detto, potrebbe tornare altre volte in estate e forse anche così, con il tempo, quando avrà dimenticato. Non dimenticherò mai e non tornerò mai a Four Winds, disse Owen seccamente. Allora, nel giardino, regnarono il silenzio e il crepuscolo. Lontano il mare lambiva lento e monotono la barra. Il vento della sera soffiava tra i pioppi, intonando un'antica e triste melodia misteriosa. Un sogno interrotto di vecchi ricordi. Un giovane pioppo tremulo, esile e aggraziato, si stagliava contro il fondale giallo, smeraldo e rosa pallido del cielo del tramonto. Ogni foglia e ogni ramoscello risaltavano nell'ombra, come incantevoli folletti ballerini. Non è bello? Disse Owen, indicando il paesaggio con l'aria di chi ha chiuso un argomento. Oh, è bello da far male, disse Anna sommessamente. Le cose perfette mi hanno sempre fatto star male. Ricordo che da bambina le chiamavo il dolore strano. Per quale motivo è associato invariabilmente alla perfezione? È forse il dolore del punto estremo al di là del quale non ci può essere che una regressione? Forse, disse Owen soprappensiero, è l'infinito imprigionato in noi, che risponde all'infinito suo simile espresso in quella perfezione visibile. Mi sembra che lei si sia preso un colpo di freddo. Si frizioni del sego sul naso prima di andare a dormire, disse la signorina Cornelia, che era arrivata al cancelletto tra gli abeti, giusto in tempo per ascoltare l'ultima frase di Owen. La signorina Cornelia aveva simpatia per Owen, ma per lei era una questione di principio mettere a tacere gli uomini che usavano paroloni. La signorina Cornelia impersonava la commedia, sempre in agguato all'angolo della tragedia della vita. Anna, che aveva i nervi un po' tesi, scoppiò in una risata isterica e persino Owen sorrise. I grandi sentimenti e le passioni, chissà perché, sfuggivano alla presenza della signorina Cornelia. E tuttavia ad Anna le cose apparvero un po' meno disastrose e dolorose rispetto a qualche minuto prima. Ma il sonno non scese a chiuderle le palpebre quella notte. Capitolo 27. Sulla barra di sabbia. Owen Ford lasciò Four Winds la mattina dopo. In serata Anna andò da Leslie, ma non trovò nessuno. La casa era chiusa e le finestre buie, sembrava priva di vita. Il giorno seguente Leslie non si fece vedere da Anna e le parve un brutto segno. Poiché in serata Gilbert doveva recarsi alla cala dei pescatori, Anna lo accompagnò fino al promontorio con l'intenzione di trascorrere qualche ora con il capitano Jim. Ma il grande faro che fendeva con il suo raggio le nebbie della sera autunnale era affidato ad Alec Boyd e il capitano Jim non c'era. «Cosa vuoi fare?» chiese Gilbert. «Vieni con me?» «Non voglio venire alla cala, ma attraverserò con te il canale e aspetterò il tuo ritorno passeggiando sul lido della barra. Questa sera la spiaggia di sassi è scivolosa e tetra.» Una volta sola sulla spiaggia sabbiosa, Anna si abbandonò al magico incanto della serata. Faceva caldo, nonostante si fosse a settembre, e nel pomeriggio era calata la nebbia, ma la luna piena l'aveva in parte diradata, trasformando la baia, il golfo e la costa vicina in un mondo strano, fantastico e irreale, immerso in un tenue vapore argenteo che conferiva alle cose un aspetto spettrale. La goletta nera del capitano Josiah Crawford, che veleggiava lungo il canale con il carico di patate per i porti della Nuova Scozia, era una nave fantasma diretta verso il miraggio di lontane terre sconosciute. Le grida dei gabbiani echeggiavano in alto ed erano le urla delle anime dei marinai dannati. Gli spruzzi di schiuma che arrivavano sulle ali del vento erano folletti usciti di soppiatto dalle caverne marine. Le grandi dune di sabbia dalla forma arrotondata erano i giganti addormentati di qualche antico racconto nordico. Le luci, che brillavano debolmente all'altro capo della baia, erano fari ingannatori di un paese di fate. Passeggiando nella nebbia, Anna si abbandonò a una lunga serie di fantasie. Era stupendo, romantico, misterioso vagare da sola su questo lido incantato, ma era davvero sola? Qualcosa apparve vagamente davanti a lei nella nebbia, si delineò, poi a un tratto si avviò verso di lei sulla sabbia ricamata dal frangersi delle onde. «Leslie!» esclamò Anna stupita. «Cosa fai qui stasera?» «Oh, se per questo, cosa ci fai tu?» disse Leslie cercando di ridere. Il tentativo non riuscì, appariva molto pallida e stanca, ma i riccioli che sfuggivano al berretto rosso si inanellavano con lo splendore dell'oro sulla fronte e attorno al volto. Aspetto Gilbert e alla cala. Avevo intenzione di fermarmi al faro, ma il capitano Jim non c'è. Beh, io sono venuta qui perché volevo camminare, camminare e ancora camminare, disse Leslie con irrequietudine. Non potevo farlo sulla spiaggia di sassi, la marea era troppo alta e gli scogli mi davano un senso di soffocamento. Dovevo venire qui, altrimenti impazzivo. Ho attraversato il canale da sola con la barca del capitano Jim. Sono qui da un'ora. Vieni, vieni, camminiamo. Non riesco a star ferma. Oh, Anna. Leslie, cara, cosa c'è che non va? Chiese Anna, anche se lo sapeva benissimo. Oh, non posso dirtelo, non chiedermelo. Non mi dispiacerebbe che tu lo sapessi, anzi vorrei che tu lo sapessi, ma non riesco a dirtelo. Non ci riesco. Sono stata una sciocca, Anna, ed è talmente avvilente essere sciocche. Non c'è niente di più avvilente a questo mondo. Rise, ma era un riso amaro. Anna le passò un braccio attorno alla vita. Leslie, è forse perché sai di provare qualcosa per il signor Ford? Leslie si girò con veemenza. Come fai a saperlo? Esclamò. Oh, Anna, come fai a saperlo? Oh, ce l'ho dunque scritto in faccia, è evidente fino a questo punto. No, no, non so dirti come l'ho saputo, è un'idea che mi è venuta, Leslie. Non guardarmi così. Mi disprezzi? Chiese Leslie sottovoce, ma in tono intenso. Mi giudichi immorale, indegna o semplicemente stupida? Oh, niente di tutto questo. Su, cara. Parliamone serenamente, come parleremo degli altri grandi problemi dell'esistenza. Ci hai rimuginato troppo sopra e non hai più una visione equilibrata dell'insieme. Sai che tendi a farlo, quando le cose non vanno come vorresti e mi avevi promesso di controllarti. Ma oh, mi vergogno tanto, mormorò Leslie, amarlo senza che lui mi abbia mai considerata. È proprio io che non sono libera di amare nessuno. Non c'è niente di cui vergognarsi. Ma mi dispiace molto che tu sia arrivata a provare un sentimento per Owen Ford, perché stando così le cose servirà solo a renderti più infelice. Non ci sono arrivata, disse Leslie con intensità d'accento, continuando a camminare. In questo caso avrei potuto prevenirlo. Ci ho pensato solo una settimana fa, quando mi ha detto che aveva finito il libro e che sarebbe partito presto. L'ho saputo in quel momento. Mi è sembrato che qualcuno mi colpisse con forza immensa. Non ho detto niente, non riuscivo a parlare, ma non so se ha parlato la faccia per me. Spero che non mi abbia tradita, o morirei di vergogna al pensiero che lui abbia capito o intuito. Anna taceva, a disagio, messa in difficoltà dalle conclusioni tratte dalla conversazione avuta con Owen. Leslie proseguiva febbrilmente come trovasse sollievo nella parola. Sono stata tanto felice quest'estate, Anna, più felice di quanto sia mai stata in vita mia. Credevo che fosse perché tutto era stato chiarito tra te e me. Credevo che fosse la nostra amicizia a rendere di nuovo la vita tanto bella e piena. Oh, proprio no. Ora so perché era tutto diverso. Ora è finita. E lui è andato via. Come posso continuare a vivere, Anna? Quando sono rientrata in casa questa mattina, dopo la sua partenza, la solitudine mi ha colpito come uno schiaffo. Con il tempo il dolore si attenuerà, cara, disse Anna, che la sentita partecipazione al dolore degli amici impediva di trovare articolate frasi di consolazione. Inoltre ricordava quanto l'avevano ferita nei momenti di pena, parole pronunciate con le migliori intenzioni, e temeva di aggiungere altro. Oh, a me sembra che debba essere sempre peggio, disse Leslie disperata. Non ho obiettivi davanti a me. La mia vita scorrerà un giorno dopo l'altro e lui non tornerà. Non tornerà mai più. Oh, quando penso che non lo rivedrò più, mi sembra che una mano crudele voglia strapparmi il cuore dal petto. Una volta, tanto tempo fa, sognavo l'amore e pensavo che dovesse essere bellissimo, invece ora è una tortura. Quando è andato via, ieri mattina, era freddo, indifferente, ha detto "Arrivederci, signora Moore". Con il tono più freddo di questo mondo, come se non fossimo stati nemmeno amici, come se non significassi assolutamente niente per lui. So che non pretendevo che sentisse qualcosa per me, ma avrebbe potuto essere un po' più gentile. Oh, se almeno arrivasse Gilbert, pensò Anna. Era divisa tra il sentimento di compassione per Leslie e la necessità di evitare argomenti che avrebbero messo in pericolo le confidenze di Owen. Lei sapeva perché il suo addio era stato tanto freddo, perché non poteva essere cordiale come avrebbe richiesto il rapporto di simpatia sorto tra loro. Lo sapeva, ma non poteva dirlo a Leslie. È stato più forte di me, Anna, è stato più forte di me, disse la povera Leslie. Lo so. Trovi che sono da rimproverare, ma niente affatto. E non lo dirai a Gilbert? Oh, Leslie, credi che lo farei? Oh, non so, tu e Gilbert siete tanto legati. Non so come riusciresti a tacergli qualcosa. Non le cose che riguardano me, ma i segreti dei miei amici, sì. Non sopporterei che Gilbert lo sapesse, ma sono contenta che tu lo sai. Mi sentirei in colpa se mi vergognassi di dirti qualcosa. Spero che la signorina Cornelia non lo scopra. A volte mi sembra che quei buoni e tremendi occhi castani mi leggano in fondo all'animo. Oh, vorrei che questa nebbia non si sollevasse più. Vorrei restare qui per sempre, al riparo dello sguardo dei miei simili. Non so come potrò continuare a vivere. Quest'estate è stata tanto piena. Non sono mai stata sola neanche per un minuto. Prima dell'arrivo di Owen c'erano momenti terribili, quando dopo essere stata con te e con Gilbert dovevo andare via. Voi due rientravate insieme, io rientravo da sola. Dopo l'arrivo di Owen era lui che tornava a casa con me. Ridevamo e parlavamo come te e Gilbert. Finiti per me i momenti di solitudine e di malinconia. E ora come farò? Oh, sì, sono stata pazza. Ora basta parlare della mia pazzia, non ti seccherò più. Ecco, Gilbert, rientra con noi, disse Anna, che non aveva alcuna intenzione di lasciar vagare Leslie da sola sulla barra di sabbia in una notte come quella e in quelle condizioni di spirito. Sulla nostra barca c'è comodamente posto per tre e traineremo la barchetta del capitano Jim. Oh, dovrò di nuovo riadattarmi a fare da terzo incomodo, disse la povera Leslie con un'altra risata amara. Perdonami, Anna, è una battuta odiosa. Dovrei essere grata, e lo sono davvero, di avere due amici contenti di farmi stare con loro. Non badare alle mie parole odiose. Mi sembra di essere diventata un ammasso di dolore e non c'è cosa che non mi ferisca. Leslie era silenziosa stasera, vero? Disse Gilbert una volta a casa con Anna. Cosa mai faceva sulla barra da sola? Oh, era stanca e sai che le piace stare sulla spiaggia dopo una delle giornatacce di Dick. Che peccato che non abbia conosciuto prima e magari sposato un uomo come Ford, riflette Gilbert. Sarebbero stati una coppia ideale, vero? Per l'amor del cielo, Gilbert, ora non metterti a combinare matrimoni. Per un uomo è una professione disonorevole, esclamò Anna seccamente, temendo che Gilbert, insistendo sull'argomento, incappasse nella verità. Ma Anna cara, non sto combinando matrimoni, ribatté Gilbert piuttosto sorpreso dal suo tono. Stavo solo considerando uno dei sé della vita. Beh, non farlo, è una perdita di tempo, disse Anna. Poi a un tratto aggiunse: Oh, Gilbert, vorrei che tutti fossero felici come noi.